Buonasera a tutti gli ascoltatori, come probabilmente si può sentire non sono in sede, ma vabbè. Comunque niente, diciamo che questo Fast and Furious, che non è più Fast and Furious ma è un ormai diciamo di Fast, ha solamente i pugni sulla faccia dati. Diciamo che le mie aspettative erano, non so come sia, questo sia possibile, ma le mie aspettative erano più alte di quello che effettivamente poi si è dimostrato essere il film. Quindi, cioè no, in realtà è stato bellissimo, perché diciamo il dialoghista probabilmente vincerà l'Oscar, forse anche un Nobel, cioè una medaglia fissa, vincerà un po' di tutto. Che dire, la battuta diciamo migliore del film è stata il "mi sta un po' grande sulle palle", però diciamo che i valori della, cioè del, caratteristici della saga di Fast and Furious sono rimasti, quindi che so, la famiglia, come ne faceva notare anche il buon Jacopo, tuttavia manca la corona, quindi la birra non è presente. L'intro in realtà mi è quasi piaciuta, nel senso che il dualismo The Rock Statham mi è sembrato quasi interessante. Immancabili le bombole di NOS sul finale, un cattivo, anche lì il Superman nero è, cioè dà quel pizzico di non so che, di Obama, di Nobel per la pace alla serie, che non so, è quel valore aggiunto insomma. Poi non saprei bene cos'altro dire. Diciamo, sceneggiatori e dialoghisti sicuramente meritano qualche premio, non so di quale entità, però veramente notevoli. A quanto pare ci sarà anche un sequel, vediamo un po' quello che sarà. Come diceva anche il buon Sala, diciamo che anche la parte femminile è stata ben, diciamo, ben presentata e ben sviluppata durante il film, con circa 3 battute e qualche cazzottata, quindi è un film meritevole di correre per gli Oscar, un film d'azione completo. E niente, dalla sede distaccata è tutto, a voi la linea. Buonasera a tutti. Recording. Madonna, che ansia! Che cazzo di ansia! È fighissimo! Porca troia! Ok. Scusate, non so se questo verrà nell'audio, tra l'altro. Allora, dicevo... Benvenuti! Allora, avete sentito in apertura l'audio di Edo, che è venuto con noi a vedere questo bellissimo film. E invece qua a registrare con me ci sono Jacopo. Salut. Eccola là. E Andrea, che però farà solo lo spettatore perché non ha visto il film. Già. Ciao. Stai calmo però, Andrea. Me vado. Vabbè. E, come avrete capito, parliamo... Ah, non lo dice forse però. Che imbarazzo. Allora, dicevo, parleremo di Hobbs & Shaw, che è un film che è uscito un paio di settimane fa in realtà, e siamo un po' in ritardo nella registrazione, ma l'abbiamo fatto perché così possiamo spoilerare come degli stronzi, anche se in realtà non c'è un granché da spoilerare. Che faccio, Jacopo? Comincio io? Sì, dai. Ah, bene, ok. Allora, Hobbs & Shaw, appunto, è un film uscito il 2 agosto, credo, del 2019, e si presenta come uno spin-off, forse il primo spin-off della serie Fast and Furious, di cui abbiamo già parlato, quindi io non mi dilungherò troppo sulla cosa. Dunque, narra il film si svolge 2 anni dopo Fast and Furious 8 e prende i due protagonisti di questo film sono due personaggi di Fast and Furious che forse conoscerete, che appunto danno il titolo alla serie, perché forse sarà una serie, non lo so, spero di sì. Appunto Hobbs and Shaw. Quindi abbiamo i due protagonisti che sono Luke Hobbs e Deckard Shaw, interpretati da Dwayne Johnson e Jason Statham. Che dire? Allora, la regia del film è di David Leitch, che ha fatto altri film d'azione fondamentalmente. Il più famoso forse è John Wick. No, non è vero. Sì. È Deadpool 2. Ok. E Atomica Bionda anche, che è abbastanza famoso, anche perché è veramente un bel film. Spoiler? No, non lo so. E ha fatto anche l'attore in diversi film. E credo che abbia lavorato anche come stuntman, quindi insomma è uno del settore, uno che ci capisce. E invece la sceneggiatura è accreditata a Chris Morgan e Drew Pearce, che sono due sceneggiatori che hanno già collaborato con il progetto, tra virgolette, di Fast and Furious, e il primo, il secondo invece ha già lavorato su pellicole d'azione. Quindi, insomma, tutto il cast e tutto. Ah, tra il cast anche menzione d'onore a Idris Elba, ovviamente, che deve essere nominato in questo podcast sempre e comunque. Ogni E 5 minuti. Vanessa Kirby, che interpreta la sorella di Shaw, La donna, chiamiamola la donna. donna, esatto, donna 1. Jason Statham, esatto. Donna 1, sì. E poi basta, in realtà nel cast non c'è nessun altro importante, credo. Nel senso che alla fine la vicenda ruota su loro tre, loro quattro e altra gente a caso che prende pugni. E dicevo, mi sono un po' perso. No, ah sì, che appunto sia il cast, sia la regia, sia la sceneggiatura sono tutti super improntati nell'azione e nei film d'azione, nelle sequenze di adrenaliniche e tutto il resto. La scorsa episodio abbiamo parlato di Crank, ma questo riesce a essere oltre. Diciamo che se Crank è un film fatto con l'intenzione tipo di essere un film d'azione adrenalinico, così questo è fatto con l'intenzione di essere un film di merda e ci è riuscito. Secondo me è bellissimo, cioè, lo so che è un paradosso, ma mi ha fatto ridere tantissimo, mi è piaciuto un sacco di più, cioè, l'ho proprio goduto dall'inizio alla fine, è stato un crescendo di bruttume. Allora, il film è costato 200 milioni e più o meno li ha incassati tutti nel primo weekend. È un film che sta andando particolarmente bene, che forse è merito anche del fatto che comunque la saga è molto famosa, anche perché le critiche sono molto basse, cioè basse, appena sufficienti, 60%, 6 su 10. Due cose al volo su quello di sulla trama del film, anche se in realtà non c'è neanche da dire, perché, ecco, perché praticamente nel trailer si dice già tutto. E i nostri eroi antieroi, la squadra formata da Hobbs e Shaw, che sono rivali, e sia nella saga sia qua in realtà, ma poi diventeranno amici, spoiler. E, dunque loro vengono messi insieme per... Cosa, scusa? Si odiano all'inizio e poi diventano amici. No, ma che dici? È incredibile. Wow, incredibile. E, diciamo, la squadra viene messa insieme per cercare un... per recuperare un virus dal nome Fiocco di Neve, con alcune cose di... alcuni riferimenti a... alla biochimica puramente casuali, letteralmente casuali, che mi ha fatto ridere più di tutto il film messo insieme, e, una forse di formazione professionale, no vabbè, e lo trovano questo virus, perché in realtà se l'è bellamente iniettato un agente da MI6 su se stessa per evitare che i cattivoni venissero a prenderlo. E questa gente altri non è che la sorella di Shaw, e quindi praticamente il film ruota intorno a questi tre personaggi che scappano dai cattivoni di turno che vogliono impossessarsi del virus. Cattivoni impersonati da Idris Elba, che è un super cattivo, supereroe, Superman nero, come dice anche nel trailer. Non solo dice Superman nero, dice anche io sono il cattivo. Sì. No, scusami, dice io sono il più cattivo. Esatto. In italiano. Esattamente. Se ci fosse qualche dubbio. Esatto. E che appunto questo umano potenziato che cerca il virus per, boh, non si è ben capito, però va bene lo stesso. E basta, in realtà la trama non dice nient'altro. Ma proprio nient'altro, nel senso che non è che non voglio far spoiler, non c'è nient'altro. E, che altro volevo dire? Che fondamentalmente non si possono fare spoiler, perché in questo film non ci sono le normali... cioè se questo film non segue le normali regole narrative, per cui non c'è un problema, un momento critico, una svolta e poi la conclusione. No, il film è praticamente lineare e non ci sono colpi di scena, non c'è veramente niente, tant'è che noi a metà film pensavamo che quella che stavamo guardando fosse la sequenza finale e quindi il grande scontro finale. In realtà era semplicemente metà del film, quindi appunto non c'è anche da fare spoiler e da dire altro. L'unica cosa che mi sento di dire prima di far parlare Jacopo è che questo film è il degno successore di Fast and Furious 8, nel senso che tutta la saga di Fast and Furious si basa sul fatto di aggiungere sempre più roba al calderone, quindi fare sequenze d'azione sempre più spinte, sempre più incredibili, eccetera, e questo riesce comunque ad aggiungere qualcosa, quindi in realtà è missione compiuta, insomma. E... basta. È sì. Pura fantascienza e basta, non so che altro dire. Praticamente... Quindi, se siete fan di Philip Dick, Isaac Asimov, così non come andate a vederlo perché viene un coccolone. No, no, cioè io ripeto, a me è piaciuto molto, nel senso che è brutto. Cioè, mi ha divertito dall'inizio alla fine, perché non ho mai per un momento avuto paura di pensare, oh mio Dio, che brutto film. Cioè, fin dal primo momento, cioè tipo nei giro di 30 secondi che tu pensi oddio ma che belle scene, girate bene, così subito, cioè, arriva la botta, io sono il più cattivo, cioè i dialoghi di questo film sono una cosa... Sì, ecco, i dialoghi non so se è un problema di traduzione, sinceramente. Cioè la trama ci sta, nel senso è un film di azione lineare. Secondo me anche la regia in alcune scene, soprattutto quelle di combattimenti corpo a corpo tipo semplici, quando stanno tipo nella base lì alla fine, in quello che pensavo fosse il finale, ma non lo è. È proprio, cioè, metà del film quello lì, tra l'altro. Esatto, no, metà no, facciamo due terzi più o meno. Sì. Non lo so, ci sono dei momenti in cui ho pensato, ma mi sto proprio divertendo non a spese del film, cioè mi sto divertendo perché è il film che voleva farmi divertire adesso, però mamma mia la scena alla fine, cioè Andrea, tu... c'è ancora Andrea o è scappato? Non so se ci sta Andrea, mi riferisco, vabbè, tu spettatore o tu Andrea, cioè non pensi di poter, cioè potresti mai pensare di voler vedere una conga di auto attaccata ad un elicottero? Cioè no, vabbè, non dico altro, che attivano il NOS, che attivano il NOS e trascinano giù l'elicottero con il NOS, con il potere della famiglia e di Gesù. Ah, ecco. e di Hawaii, porco, Samoa, sì, Samoa, allora. Scusa, Samoa, è vero. Tu hai citato due cose che vengono citate anche all'introduzione da Edo, che sono appunto i dialoghi, che sono un grosso problema del film, nel senso che sembra che il target abbia tipo 2 anni, e magari è quello, non lo so. E spero sia un problema di traduzione, ma non credo, sinceramente. Sono veramente imbarazzanti, sembra di guardare Boris, però Boris lo fa apposta. Occhio okay, il cuore. Esatto. È vero. E poi l'altra cosa, ci sono tutti gli elementi di Fast and Furious, cioè anche se in realtà non ci sono per tutto il film, ma nel finale ci sono, quindi la famiglia, le macchine, e il NOS, e... quindi in realtà è un degno Fast and Furious. Mamma mia. Ah, e poi come in ogni Fast and Furious, come diceva Edoardo, anche cioè, i personaggi femminili sono praticamente... letteralmente degli oggetti, cioè non aspetta, scusami, non letteralmente come in Crank, ma diciamo che se il test di Bechdel fosse un esame, beh, la madre vincerebbe probabilmente ok, la madre vincerebbe, è vero, però comunque tutti i personaggi sono relativi a personaggi maschili. Oddio, però alla fine non sì, la allora tizia non si bacia, cioè no, scusami, non fa sesso con The Rock. No, perché le faceva schifo probabilmente. Ah, ok. No, non lo so, allora secondo me è perché il target è tipo di 2 anni. Comunque c'è in realtà sì, c'è questo. Scusami, vai. No. No, dimmi pure Jacopo, poi... No, era una cazzata, volevo dire solo che questo film è fatto, secondo me, da un bambino di 5 anni per un bambino di 5 anni, quindi a me piace tantissimo. Cioè, è perfetto, proprio Micro Machines. Allora, il personaggio femminile particolarmente forte c'è, però non è né protagonista e comunque non ha molto spazio nel film, ed è la figlia di The Rock. E... sì. è il personaggio femminile più caratterizzato lì dentro, perché poi ce ne sono 3 di personaggi femminili. C'è la madre di The Rock che dice cose a caso sul finale, tipo ah, questo è mio figlio, li voglio bene, ok, tipo stereotipo di madre italiana, anche se qua è samoana, e basta. E poi c'è la protagonista vera e propria che però va. Cioè, in realtà sì. Lo stesso spessore di Hobbs & Shaw, cioè, nel senso, non è niente di diverso. Sì, infatti. Cioè, il personaggio con più caratterizzazione è Idris Elba. Sì, però dai, anche Hobbs & Shaw, mo, a parte, vabbè, che sono proprio stereotipati al massimo, però, cioè, già all'inizio quella scena... che diceva anche Edoardo, loro due, è stupida però è efficace, insomma, ti dà... Sì, sì, no, la sequenza iniziale è molto bella, quella lì è carina. Ma adesso mi ha fatto ricordare che in questo film in realtà si nasconde un film, secondo me, potenzialmente molto bello, cioè che se fanno il seguito così si meritano seriamente l'Oscar, Golden Globe e tutto, cioè quello che succede in questo film mentre Hobbs & Shaw distruggono cose... ma come protagonisti Deadpool, cioè Ryan Reynolds e la figlia di The Rock, perché Ricordiamo che in questo film c'è Ryan Reynolds, sì, che io non avevo assolutamente idea. Sì, scusa, vabbè, questo è uno spoiler praticamente. Vabbè, ma cioè... No, compare al minuto tipo 3 e fa fondamentalmente Ryan Reynolds ed è carino. Cioè... però vabbè, sì no, è dire... Deadpool. È Deadpool, esatto. Cioè, praticamente, probabilmente la nostra idea è che loro abbiano preso Ryan Reynolds e gli abbiano detto: senti, noi non ti abbiamo scritto battute, tu fai te e basta. E in effetti funziona. Funziona, sì, ma cioè, sono convinto che ormai Ryan Reynolds non possa più sbagliare, e questo sicuramente tra un anno mi pentirò di averlo detto, però... No, beh, è cioè... tipo Robert Downey Jr., non... Cioè, in ogni film fa se stesso, ma non me ne frega un cazzo. Tipo Detective Pikachu, Deadpool, cioè... Comunque stavo pensando che ormai tutti i film che trattiamo hanno gli stessi attori. Cioè, Idris cazzo, Elba è tipo in 12 film. Vabbè, dovremmo fare un... Che beh, no, aspetta, Idris Elba... Ah, la Torre Nera, è vero. È la Torre Nera e i film Marvel... questo dovremmo fare un episodio su The Wire e Luther, sì. No, che volevo dire una roba, mi sono scordato, cacchio, era una roba importante, cioè no, però vabbè, no. Ah, dicevo, se volete andare a vedere questo film, che comunque merita se vi piacciono i film d'azione, non aspettatevi una roba particolarmente ricca. Fondamentalmente questo film è Bad Boys con più azione. Eh sì, cioè la solita sega sulla coppia malassortita che deve fare una roba. È arma letale, non so come... Boh. Sì, dai, diciamo che è tipo Bad Boys, però... È bianco. Bianco, esatto. Bianco è e mulatto. È il whitewashing di Bad Boys. Ti dirò, a me farebbe più ridere questo, cioè riguardarlo, che Bad Boys. Beh, vabbè, sicuramente. Cioè, mi riguarderei più volentieri, forse perché, vabbè, però Bad Boys l'ho visto tipo 4 volte, quindi non ma lo so. Questo è esagerato, adesso noi non lo prendiamo sul serio e quindi ci ridiamo sopra, in realtà il film si prende un po' sul serio, quindi la cosa fa abbastanza tristezza, probabilmente per quello che la critica è stata un po' pesante, e... però noi ci lo sappiamo. Ci sono un po' di momenti seri. Cosa? No, dico, effettivamente ci stanno un po' troppi momenti seri. Sì. No, però c'è un po' di epicità all'interno. Noi ovviamente non l'abbiamo vista e quindi abbiamo riso, però a parte quello. E basta, dai. Ne abbiamo parlato anche troppo, sì. In realtà. Non c'era un cazzo da dire su sto film, nel senso che non c'è un cazzo da dire sulla trama e quindi... che dire? Allora, sia Ryan Reynolds sia Kevin Hart vengono considerati cameo nel film. Kevin Hart interpreta anche lui se stesso e fa abbastanza cagare, però è amico di Dwayne certo. Johnson, e quindi... Jumanji, caro, Jumanji. Non vedo l'ora che esce il 2, cazzo. Jumanji è bello, invece qua fa... Boh, vabbè. E basta. Andrea, ridi. Vorrei rivedere questo film girato con un regista diverso per vedere cosa viene fuori. Secondo me ci sono alcune scene che si prestano bene a... Come cacchio si chiama? Mi ricordo... Aspetta. Mi sono perso. Cosa? No, dicevo... E... Dicevo che ci sono un po' di scene che si prestano bene a una regia diversa, tipo, boh, cazzo, ne so, Edgar Wright. E gli darebbero un taglio comico e divertente alla cosa. E basta. Oddio, è vero, forse qualche regista un po' più... Non Più d'azione, ma so. commedia. Secondo me farebbe sì che il film non si prendesse così sul serio e sarebbe forse solo divertente. Comunque è un film troppo lungo per essere un film commedia. Vabbè, comunque. Comunque, voglio fare una veloce rubrica lampo, se Sì, poi permetti. di che ho preso un altro punto così andiamo a casa. Ah no, l'hai già detto lo scorso episodio. No, l'abbiamo già scritto, ok. No, l'idea era... Ok, siccome sono in Francia e questa settimana in Fa già teoria dovrebbe ridere. uscire... Fa già ridere. Questa settimana in teoria dovrebbe uscire un film francese d'animazione, che in realtà in Francia è già uscito da un bel po' di tempo, che si chiama Playmobil The Movie. Non è vero. Ed è vero, Cioè, cazzo, è praticamente è il vero. competitor di Lego Movie. Esatto, e c'è tipo il protagonista che è cosa? Harry Potter, l'attore che fa Harry Potter, gli fa la voce. Ti Daniel Radcliffe. giuro. Però, cioè, è una cosa... Quando l'ho scoperto, boh, Va bene. vabbè. Mi è uscito le palle dagli occhi. Comunque, è già un... cioè, si sa già che è un film di merda, è uscito da un po' di tempo, non è stato diciamo, un successone. A tipo 24% su Rotten Tomatoes, Bello. Potremmo quasi tipo vederlo a sto punto. ci sono solo 6 recensioni su Metacritic, tipo 25 su 100. Comunque, non mi interessa tantissimo di sto film, però mi è venuta in mente questa domanda: quante persone ogni anno muoiono soffocate su quei pupazzetti o su pupazzetti di plastica in generale? Perché Ma tu hai ho un una dato domanda sotto qua. mano? Ho qualche. No, non ho un dato. Ho pensato, vai, prima che lo cerco, facciamolo come scommessa. Cioè, ognuno di noi dice un numero, poi lo cerco e vediamo cosa esce fuori. Perché questo film mi sa proprio di. Cioè, non voglio costringermi a vederlo per controllare una scommessa. Quindi. Soffocate da Lego o da pupazzetti? Da pupazzetti, da giocattoli di plastica ogni anno. So, secondo me è circa 100.000. 100.000? Sì. Beh, Cazzo, ok. gli americani sono stupidi, secondo me anche di più, però. Ok. Andrea? Andrea è soffocato. Silenzio. Andrea si Ma che ne dissocia. so. 20.000, dai, 20.000. 20.000? Ma dai, c'è tanto, ma che sì. Io dico 50.000. Ho capito, ci sono 6 miliardi di persone. Ok. Se vuoi cerco adesso mentre tu finisci. Sì, cercalo adesso. Allora, basta. No, in realtà un'ultima roba. Allora, ho visto che Vin Diesel non è accreditato e non ho capito perché. Per favore, Vin, se ci stai ascoltando, dici perché non sei accreditato in questo film? Come Allora, no? no, ti ricordi che abbiamo guardato i titoli di coda tutti letti e non c'è un cazzo? Tra l'altro, Cazzo. rega, se andate a vederlo al cinema, e questo è importante, se ci sono i titoli di coda, voi non aspettate la scena extra perché è talmente brutta che non. Cioè, andate a casa, vi prego, è orrenda. Non serve a niente, è boh. E ti ci fanno credere perché tengono le luci spente al cinema, tipo, guardate, è tipo Marvel, ecco la vostra scena, e poi non c'è un cazzo. Hai Sì, trovato? ogni anno, secondo uno studio del 2013, Eh sì, sti cazzi, vabbè. quindi vabbè, però è il primo risultato, 12.435 bambini si soffocano ogni, cioè, ogni anno. Cazzo. Però questi sono solo bambini e sono solo in America. Però siccome non riesco a trovare, diciamo, il numero totale in tutto il mondo, direi che va Andrea. Se Sal è d'accordo. Sì, va Andrea. L'avevo detto basso. Che gli americani sono stupidi comunque. Quindi il punteggio è 2 Jacopo, 6 Salla, 4 Andrea e 2 ospiti. Tu pensa, ci sono 12.000 coglioni che mangiano Lego ogni anno. Va bene, niente, grazie di averci seguito su Spotify Podcast, Google Podcast, il sito, quel cazzo che usate. E, grazie mille. Andate a vedere Hobbs & Shaw oppure risparmiate 7 euro e usateli per comprare il Lego con cui soffocarvi. Buona serata, giornata, quello che state facendo. Alla prossima settimana. Ciao ciao. Ciao. Ciao.